prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Opportunità per i giovani ne arrivano anche dalla Caritas di Venezia con iniziative che ci portano ancora all'estate. Prima si parlava dell'esperienza di volontariato della pastorale giovanile di Treviso in occasione del pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Ebbene, ci sono altre possibilità a Venezia. Da alcuni anni c'è la festa d'estate che si svolge a luglio, un appuntamento che cerca di mettere insieme i giovani, anche chi magari non ha l'opportunità di divertirsi tanto nel corso dell'anno. Vi do un riferimento, che è ovviamente quello della Caritas Veneziana, caritasveneziana.it, una mail che è info@caritasveneziana.it, un numero di telefono che è quello di Nella, 348 74 37 109. La mail è Nelly, scritto Nelly, k66@libero.it, ma trovate tutti i dettagli e anche ulteriori spunti per questa esperienza di solidarietà promossa dalla Caritas Veneziana, dalla Pastorale Giovanile Veneziana per il mese di giugno. Nei mesi di luglio e agosto invece c'è un'esperienza che da alcuni anni, dal 98, porta la Caritas Veneziana in Romania, nella regione Ialomita, città di Slobozia, un'esperienza che nel tempo si è consolidata e strutturata. È stata attivata anche lì la Caritas parrocchiale, costruita una chiesa, un centro di aggregazione, c'è una mensa per bambini e adulti due giorni alla settimana. Dal 2005 c'è anche la proposta dell'accompagnamento a distanza per bambini che frequentano la mensa e vengono accompagnati a scuola, e anche per le situazioni di difficoltà delle famiglie. Nei mesi di luglio-agosto viene proposta anche l'attività del GREST, che ha coinvolto negli anni molti gruppi parrocchiali italiani, che nell'arco di tempo di 10-15 giorni, quanto dura quell'esperienza, si sono messi in gioco animando i bambini attraverso giochi e laboratori. Grazie poi agli operatori locali della Caritas questa esperienza può essere vissuta anche di persona. Oltre alla Romania, la Caritas italiana è presente da alcuni anni anche in Kosovo, in località Peia, e il direttore di Caritas Veneziana, Monsignor Dino Pistolato, ha ricevuto recentemente anche la cittadinanza onoraria. Qui c'è un centro giovanile molto ben organizzato che sta attirando e integrando altre associazioni, gruppi e singole persone che compongono tutta la struttura, impegnata in attività sportive, attività culturali, scambio culturale tra giovani con la costruzione di pace e tolleranza, animazione anche qui con i bambini, educazione, formazione professionale, protezione dell'ambiente. C'è anche la scuola materna, che è sostenuta anche con finanziamenti e progetti dalla Caritas Veneziana. Anche queste iniziative da conoscere innanzitutto, e perché no, da sostenere. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Come facciamo spesso nel nostro appuntamento con le Caritas, allarghiamo lo sguardo intanto a livello nazionale, perché nei prossimi giorni continuano le inaugurazioni dei centri delle comunità costruiti col contributo delle Caritas italiane e diocesane nella zona terremotata dell'Emilia dello scorso anno, ma anche dell'Abruzzo del 2009. Questo sabato 4 maggio l'inaugurazione è a Villa Sant'Angelo L'Aquila, centro della comunità e centro servizi. Il giorno 12 maggio invece a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. A metà maggio, poi dal 14 al 16, a Roma c'è l'Assemblea Generale della Caritas Internazionale. Poi gli appuntamenti sono molti, c'è anche un appuntamento europeo, le Caritas europee si riuniranno a Bruxelles il 23 e il 24 di maggio. Il prossimo 7 maggio invece saranno resi noti i vincitori del 12° Spot School Award, premio scolastico degli spot, traduciamo così, è il premio per le migliori campagne di comunicazione organizzato dall'associazione Creativi si nasce, supportato dalle organizzazioni di categoria dei pubblicitari. Prevede la realizzazione di campagne sociali e di prodotto e si rivolge ai giovani studenti o neolaureati delle scuole e delle facoltà universitarie di comunicazione. C'è stato anche un tema proposto da Caritas Italiana sui conflitti dimenticati a partire dall'ultima ricerca pubblicata, Mercati di guerra, il quarto rapporto di ricerca su finanza pubblica, povertà, ambiente e conflitti dimenticati, realizzato da Caritas Italiana, Famiglia Cristiana e Il Regno. In questa ricerca si evidenzia il ruolo centrale della dimensione economico-finanziaria nel determinare situazioni di tensione politica e conflittualità armata nell'ambito dello scacchiere internazionale e all'interno dei singoli stati. Concentrandosi su alcuni casi, tra i più eclatanti, ma non sono solo questi, perché i conflitti attualmente in atto nel mondo sono decine: Libia, Somalia, Afghanistan, Filippine e Colombia. C'è anche il sito ufficiale che è Conflitti Dimenticati, un sito appunto che ci dà una panorama di cui non ci rendiamo conto, perché i nostri mezzi di comunicazione, soprattutto quelli italiani, dobbiamo dire, non danno quasi mai spazio alle notizie dall'estero, perché siamo troppo concentrati sulle nostre cose. È un mondo purtroppo molto ampio, quello delle guerre dimenticate, anche dei mercati di guerra, di quanto i conflitti bellici muovono dal punto di vista economico, e anche in questo la Caritas ci aiuta a riflettere. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.